24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Sono passati più di 2 anni e anche questa volta siamo costretti ad essere presenti lì in Italia solo attraverso una webcam. Abbiamo obbedito a degli ordini ed oggi siamo ancora qui presenti. Abbiamo mantenuto una parola, quella che ci era stata chiesta di mantenere e che ancora con dignità e onore per la propria nazione la continuiamo a mantenere. Noi vorremmo che venga riconosciuta prima di tutto la nostra innocenza. Noi vorremmo che i nostri paesi dialogassero per la pace e non per le rotture. Il muro contro muro porta solo alle distruzioni. Il principio dell'immunità funzionale è un tema che riguarda noi due direttamente in questo momento, ma che riguarda tutti i militari del mondo. Ogni militare deve lavorare e deve sapere di essere tutelato dalle proprie immunità. Erano i nostri Marò, detenuti in India, senatore per Ferdinando Casini. Lei, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, si occupa del caso Marò. Perché non è valsa l'immunità funzionale di cui parla Girone per loro? Non è valsa evidentemente perché c'è stata una stortura inaccettabile, una forzatura della giustizia indiana, che peraltro oggi, dopo 2 anni, non è ancora stata in grado di elevare un'imputazione precisa ai nostri militari. Questi non sono certo terroristi, hanno combattuto e combattono contro il terrorismo, erano imbarcati in una missione antipirateria su indicazione del nostro governo, in adempimento ad una delibera specifica, certo, delle Nazioni Unite. Però, Presidente, se fossero stati 2 Marines li avrebbero già portati via, d'accordo? Probabilmente sì. Ecco, al CERMIS è andata così. Non volevano far processare i piloti americani, ci hanno riso in faccia e li hanno riportati in America. Noi invece li abbiamo fatti ritornare in India. Diciamo che c'è stata una serie impressionante di errori che hanno caratterizzato questa vicenda fin dai momenti immediatamente successivi all'episodio che è capitato e per i quali certamente dovranno avere un giudizio i nostri Marò, e noi non ci siamo mai opposti al fatto che essi vengano giudicati per questo. Ci siamo opposti alle modalità e alla pretesa degli indiani di essere loro i giudici. Comunque l'errore principale è stato quello di dare l'ordine alla nave in acque internazionali di attraccare nel porto. Ecco, ma quindi quello è il punto centrale di tutti gli errori. Certo. Dopo questi errori ce ne sono stati tanti altri, però io mi sforzo oggi di fare una divisione delle questioni, perché se adesso apriamo il capitolo degli errori, indeboliamo anche negozialmente la posizione dei Marò. Ma negozialmente, sì. Negozialmente, Presidente, mi pare che non abbiamo negoziato nulla finora. Beh, anzitutto abbiamo ormai messo questo contenzioso in una dimensione internazionale, cioè non è più un problema bilaterale tra noi e l'India, se mai lo fosse stato. E poi dopo, come ci chiedono i Marò, prima ho sentito l'audio del nostro incontro con loro, loro ci chiedono anche non disperdete la possibilità di dialogare, naturalmente, andare avanti su un doppio binario. Ad esempio ieri sera proprio ho chiamato l'ambasciatore italiano in India, che prenderà contatto con i presidenti appena saranno eletti delle commissioni parlamentari, proprio per esperire anche parallelamente la strada del dialogo. Oggi, diciamo la verità, tanto tutti gli italiani, ecco, l'hanno capito non c'è tutti. Non c'è più la signora Gandhi, sulla quale è stata fatta una strumentazione. Una speculazione, certo, una in quanto italiana. Dire, certo. Questa è italiana di origine, per cui va dipende bene. Gli italiani. Oggi non c'è più, probabilmente ancora più distante da noi, il nuovo primo ministro Modi, però è quello con cui probabilmente faremo più facilmente una trattativa. Ecco, senta, però, è la nostra speranza, però, Presidente, accanto al problema contenzioso internazionale naturale. Ecco, sul piano internazionale però lei ha detto l'abbiamo spostato sul piano internazionale, ma i fatti della comunità internazionale al nostro sostegno quali sono? Non se ne vedono. No, beh, adesso questo non è vero, no? Perché me lo dica. Ha parlato il Consiglio d'Europa, hanno parlato anche in questi giorni moltissimi paesi amici nel sostegno nostro. Il problema vero è che gli indiani non è che sono interlocutori semplici. Quando noi siamo stati a certo Nuova Delhi, no, andammo a trovare l'ambasciatore degli Stati Uniti, una signora, la quale ci disse che qualche giorno prima i parlamentari americani, che come voi sapete non è che si muovono proprio facilmente, erano arrivati in massa per parlare con gli interlocutori indiani, non hanno trovato nessuno, certo, né più né meno erano come noi. Giorni di vacanza? No, erano giorni di, tra virgolette, vacanza, cioè erano giorni in cui non volevano dialogare perché c'era la campagna elettorale, certo. E il fatto che si muovessero da Washington dei parlamentari americani non li ha fatti cambiare di un millimetro. Niente. Rispetto alla loro posizione. Senta, i legali della Marina Militare però fin dall'inizio suggerivano di ricorrere al Tribunale Internazionale dell'ONU del diritto del mare di Amburgo. Ci sono voluti 2 anni però per cambiare strategia. Lei ha capito perché? No, non l'ho capito e soprattutto credo che se adesso entriamo in questi aspetti legali anche di contenzioso internazionale senza gli elementi precisi che i tecnici devono fornire, rischiamo di fare dei ragionamenti su cose astratte. Ecco, ma allora per stare nel concreto, lei Presidente ha detto che la vicenda dei Marò, l'ha anche un po' ripetuto prima, è stata costellata di errori. Mi dice il più grave, a parte quello di rientrare in porto? A parte quelli, c'è sempre un peccato originale. Quello è quello più grave. Da quel peccato originale ne sono succeduti tanti altri. Devo dire che quello è estremamente superiore rispetto agli altri. Sì. Dopodiché, certo, è posteriori. Oggi la storia, quando la si fa, ad anni successivi è sempre più semplice farla. Certo, non c'è ma dubbio. Se oggi si tornasse indietro, probabilmente io non li farei rientrare nemmeno dopo loro vista in Italia. Ma insomma, Terzi aveva ragione. Terzi aveva ragione, tutto sommato, a non volerli far rientrare. Vorrei ricostruire con chiarezza quello che è capitato nel governo. Sì. Lo farà, a mio parere, una commissione di inchiesta parlamentare che si istituirà nel momento in cui questa vicenda vedrà i due Marò sul territorio nazionale. Ecco, sì. Prima no. Prima non si può dire che Monti li ha traditi, no. Non posso dirlo. Non può dirlo, ma un po' lo pensa. Senta. No, non posso dirlo, non posso dirlo e non mi sembra neanche corretto, diciamo, dare un giudizio sommario rispetto a fatti che vanno ricostruiti, perché certo, sennò, sapessimo già anche la verità, non servirebbe neanche la commissione d'inchiesta. Certo, va bene. La commissione d'inchiesta dovrà verificare tutto senza rispettare nessun santuario, però senza neanche fare dei giudizi sommari. Va bene, d'accordo. Quindi diciamo che la gestione che ha fatto Staffan de Mistura per conto del governo è stato il possibile. Non è certo responsabile della situazione che si è prodotta. 800 24 00 24, il numero verde, SMS 349 238 6666. Pietrangelo, che dici? Ci sono due cose che da dire. Una è ben chiara, è che avendo autorevolezza zero e sovranità nulla, non siamo in grado, in quanto Italia, a poter trattare alcunché, a maggior ragione su un caso così delicato. Poi quello che resta da capire è, nella frase di Girone, abbiamo obbedito a un ordine, è che non si capisce quale sia l'ordine e chi abbia dato l'ordine, a meno che non si riferisca alla parola data, ma lì entriamo nell'etica militare ed è un campo su cui non ci sono discussioni. E tu Mario che dici? Ma, purtroppo il governo beh, non gestita mai. Non gestita mai. Insomma, li ha abbandonati, diciamolo sempre. Beh, governo Farnesina, cioè insomma, Palazzo Terzi, Chigi, Terzi, Farnesina, si è aveva ragione. Farnesina è Presidenza della Repubblica, anche lì, bisogna dirla proprio tutta. È stata una gestione disastrosa fin dall'inizio e quindi non sappiamo come andrà a finire questa storia qua. Ripeto, secondo me l'errore originario è stato quello di farli scendere in porto. Quindi, una volta fatto questo, sai, gli è consegnate le autorità indiane, cosa puoi fare? Beh, infatti gli americani, io ho fatto l'esempio, gli americani sarebbero andati a prendersi se li portavano via come hanno fatto. No, ma poi abbiamo sbagliato due volte. Quando li hanno fatti tornare in Italia, siccome l'andazzo era meglio tenerli in Italia. Non è bello dirsi. No, non perché, è bello, però, ma visto come era, c'erano le elezioni. La maledizione badogliana colpisce sempre. 800 24 00 24, 349-238-6666, l'SMS. Il calo di lavoro è stato del 40%. documenti per i leasing, documenti per le banche, documenti per il nostro lavoro del riciclaggio, carte, disegni, certificati di regolare l'esecuzione delle opere. Gli altri paesi non operano così. Fa il lavoro, fa la fattura, viene pagato. Ci ritroviamo a non avere più la liquidità per riuscire a stare dietro a pagare tutto. Reputo lo Stato un fannullone, non ho ritenuto opportuno a pagarlo. Sono riuscito a pagare tutti i dipendenti, tutti i fornitori. Ho dato priorità a delle fasce più deboli. Non ritengo lo Stato una fascia debole. Sto incitando l'evasione, sto incitando la sopravvivenza, perché se non ci fosse quel po' di nero che c'è, mi dovrebbero dire i signori là dove va a mangiare la gente. Prendo una ciliegia, la metti in bocca, la mangi, succhi l'osso e poi lo sputi fuori. Quello che sputano fuori siamo noi alla fine. Alberto Baban, presidente di Piccola Industria, vicepresidente di Confindustria. Ecco, questo era un estratto dalla gabbia di Gianluigi Paragone. Ma i piccoli saranno condannati sempre a morire definitivamente di burocrazia e di tasse? Buongiorno. Buongiorno. Beh, sai, effettivamente il problema della burocrazia ormai è in assoluto il male italiano, quindi la forma di reazione più concreta è proprio ripartire dalla semplificazione e ripartire da un approccio diverso Stato e imprese e imprenditori. Ecco, lei si aspetta qualcosa dal decreto sulla pubblica amministrazione del ministro Madia, del governo, insomma, di oggi? Beh, mi aspetto che inizi questa parte di riformismo tanto voluta e andremo a misurare poi gli effetti reali su quello che varrà per le imprese, gli imprenditori, i cittadini. Andremo a vedere, a misurarlo realmente. Nel concreto, con lei, presidente, sì. È fondatore della Tapi, un'azienda che produce tappi high-tech per liquori, per bottiglie, venduti in 60 nazioni del mondo. Ecco, un mestiere vecchio come il mondo che è riuscito a diventare high-tech. Dov'è l'innovazione? Ma guardi, è una storia molto italiana, nel senso che l'italiano è proprio capace in un settore ancora maturo di innovare e rinnovare, quindi su un prodotto che alla fine è una cosa molto semplice, tecnologicamente certo, molto semplice, abbiamo inserito quella che è la tipicità nostra, che è il design. E quindi abbiamo innovato il prodotto attraverso l'idea di mettere dell'immagine sul packaging, e questa è stata una formula vincente che ha funzionato, insomma, dei tappi d'autore, insomma. Come le è venuta l'idea? Ma è stato un incidente di percorso, come succedono tutte le parti di innovazione. Si è unita il mio background, che è quello della plastica, a sostituire un prodotto che era maturo, che era... Ma incidente di percorso perché? Cosa vuol dire? In realtà io ero un dipendente, ho terminato la mia esperienza da dipendente e trovatomi a reagire rispetto a quello che era la novità per me, ho cercato poi di capire se potevo fare qualcosa di mio. Molto elegante come lo racconta. Senta, lei ha detto più volte che dall'Italia comunque non se ne vuole andare, malgrado le difficoltà e l'esperienza, lo conferma? Proprio facendo questo mestiere, il mio mestiere di imprenditore, ho girato molto, ho girato il mondo, e proprio quando vai all'estero e ritorni in questo paese capisci che non puoi uscire da questo paese. È un paese meraviglioso, è un paese per cui bisogna combattere per rimanere e trovare la modalità per riuscire a restare qui. Ecco, ma secondo lei hanno ragione quegli imprenditori che preferiscono pagare i fornitori e i dipendenti piuttosto che pagare le tasse quando non ce la fanno più? Ma guardi, questo ho sentito anche all'inizio di questa trasmissione, no? Cosa dicono alcuni imprenditori. Io mi rendo conto che è veramente molto difficile giudicare. Ci sono alcuni casi che arrivano proprio alla disperazione, quindi quando sei disperato non sei lucido, non riesci a capire, non riesci a decidere. E ci vuole una grande volontà di approcciare questi casi e riuscire ad avvicinare le persone alle istituzioni, che devono essere molto più facili da interpretare. Bisogna far capire cosa significa stare in questo paese. Semplificazione. Ecco, presidente Baban, le nostre piccole e medie imprese comunque, secondo la Confartigianato, pagano di tasse 25 miliardi in più rispetto alla media dell'Unione Europea, e il fisco preme per il 43,9 del PIL. Ecco, è necessario quasi uno sciopero fiscale per liberarsi da questo gioco? No, è necessaria una rivisitazione fiscale, è necessario ripensare il fisco ed è importante far capire quanto sia tollerabile pagare al fisco. E questo dipende dalla riforma dello Stato, non ecco, dipende dalla riforma delle imprese. Presidente, a proposito di questo, lei viene dal Veneto, che è la regione che ha dato un grande consenso dal punto di vista elettorale a Matteo Renzi, cioè un'apertura di fiducia. C'è ottimismo fra gli imprenditori per quello che farà il Premier? Cioè c'è un ottimismo reale? Guardi, c'è una voglia di cambiare, c'è una voglia di cambiare passo, c'è una voglia di riscossa. C'è voglia di credergli? C'è voglia di credere in un governo che finalmente porti questo paese a quello che si merita, ad emergere e a dare l'opportunità a chi ci lavora su questo paese, a farsi capire e riuscire a dare veramente quello che poi può esprimere questa Italia. Ecco, Presidente Babban, lei ha parlato di modello veneto per la rinascita dell'impresa italiana. Adesso, al di fuori delle parole e degli slogan belli e efficaci, che cosa vuol dire in concreto? Beh, io sono veneto, vengo dal Veneto, è un paese, una parte d'Italia che ha subito moltissimo la crisi, il cambiamento e che sta reagendo, e quindi il modello veneto ha solo un significato di dire che c'è una parte che sta sperimentando, sta reinventandosi, sta cercando di capire se ci sono nuove imprese, nuove produzioni che possano soddisfare i mercati che non sono più gli stessi. E quindi è interessante capire se ci sono alcune imprese che hanno un DNA diverso e copiare, usarli come casi da emulare. Senta, lei ha un consiglio concreto da dare alla Madia? Beh sì, guardi, innanzitutto accelerare sui decreti attuativi della delega fiscale, è una legge già approvata dal Parlamento, lì all'interno c'è proprio anche tutto quello che riguarda l'apparato della semplificazione e quindi poi cercare di capire come si può ridurre l'impatto della spesa pubblica improduttiva. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms per chi vuole intervenire. Lei ha detto che il problema dell'Italia è che è spezzata in due, un nord che addirittura va meglio della Germania, un sud che arranca. Allora che si fa? Bisogna ripensare proprio dal punto di vista geografico che cosa conta il sud, che cos'è il sud. Il sud è la porta dell'Europa, il più grande mercato al mondo di consumo, e il sud può essere questo hub verso il Mediterraneo, deve essere il punto di conquista del nuovo mercato che è il Mediterraneo e l'Africa. Quindi va ripensato e va unito a quello che è la capacità che ha espresso il nord di industrializzarsi e di fare delle imprese molto efficienti nell'export, va unita all'idea che effettivamente anche il sud può farcela. Ma il 90% delle imprese italiane ha mediamente 9 dipendenti. Ecco, come possono sopravvivere queste formiche di fronte al dragone cinese? È il compito di Confindustria, è quello che noi ci proponiamo, riuscire a spiegare quali sono i nuovi modelli per riuscire ad agganciare quelli che sono i mercati importanti, quelli che contano e quelli che comprano. Quindi processi di aggregazione e cercare di far capire che ci sono delle nicchie di mercato che hanno necessità di alcune dimensioni. Non esiste un'azienda piccola o un'azienda grande, esiste solo l'azienda che può vendere sui mercati che compra. E quindi è un problema della rete anche, di fare rete? È un problema assolutamente di fare rete e di riuscire a far capire a questi imprenditori che la loro produzione, le loro capacità possono dare un'accelerazione fortissima, avendo l'opportunità di riuscire a sposare altre imprese o ad aggregarsi con altre imprese. Ecco, ma lei è veneto, è sorpreso dallo scandalo Mose? Beh, sorpreso è una parola che forse non dà l'idea. No, di sorpreso proprio, nel dire, c'era una nell'aria si sentiva? Ma è il male italiano, diciamo così, e guardi, è proprio la burocrazia, nelle pieghe della burocrazia che si annidano poi tutte le giustificazioni di come dice il giudice Nordio che ha fatto l'inchiesta, dice che semplificare vuol dire ridurre anche la corruzione? Sì, assolutamente semplificare vuol dire ridurre la corruzione, però le dico questa cosa che mi stupisce sempre. Fa molto chiasso e giustamente fanno notizia questi scandali, ma non fa notizia invece quante sono le persone oneste, le persone che lavorano, le persone che fanno crescere questo paese e mantengono questo paese. E guardi, sono veramente, non sono solo tante, sono la maggioranza e sono pochissimi quelli che hanno invece in mente di delinquere per trovare delle scorciatoie. Ecco, ma quanto durerà la vostra fiducia di imprenditori piccoli e medi veneti nel governo di Matteo Renzi? Noi abbiamo una fiducia, un sostegno che significa cambiamento, e quindi sosteniamo un governo che vuole fare questo cambiamento. Quindi noi riportiamo quello che è la nostra capacità. Insomma, ai fatti, vi aspettate ai fatti. Contiamo molto sui fatti. Ma avete un tempo limite? Avete un tempo limite? Guardi, il tempo limite è dettato dalla capacità di sopravvivere delle imprese. Meno 120.000 è il numero di imprese che dai primi anni 2000 sono sparite e molto probabilmente non ritornano più. Sì, Mario. Sì, una domanda Mario secca. Secchi. Si parlava tanto di federalismo fino a qualche anno fa, adesso se ne parla poco o niente. È un sogno che non si è avverato ed è bene così, sì o no? Ma io francamente ero assolutamente favorevole al federalismo e il modello tedesco, quello dei Länder, sì, che significasse che alcune zone hanno delle specificità e quindi investire in alcune zone è favorevole per far crescere le imprese. Questo poi è stato cavalcato dal punto di vista partitico e ideologico, ma io mi limito solo a pensare quanto potrebbe essere stato utile per il sistema imprenditoriale. Mix 24. Per niente al mondo io ti lascerei. Sì. Sono cose che si dicono. Tu sei la donna della vita mia. Che affermazione categorica. Sarebbe meglio lasciar perdere. O almeno fare. Allegria, allegria oggi in metropolitana. Le cose che si dicono. E il dire è sempre un dire del poetare. La poesia è il luogo del creare. E siccome a Genova è in corso il Festival Internazionale della Poesia, pensa, da stasera fino alle 18 di domani accadrà. Perché la poesia è un accadimento, una maratona di poesia. È la 20ª edizione. Tutto è nelle mani di Claudio Pozzani, insignito fabbro di poesia dalla città di Cicala Zadè, il guerriero che si fece lupo per amare la luna. E cerchi in fondo ad un incubo. Potrei accendermi un toscano dopo questa cosa in studio. Dai, altro. Su, sentiamo oggi le bolle che credo che siano importanti. Sì. Ding dong, casa Obama, lo risentiamo? Si può? Ding dong, casa Obama, ancora? Ding dong. Non risponde nessuno a casa Obama. Oh, è questo qua, ma insomma, allora, ha detto che forse farà qualcosa per l'Iraq. Dopo che, insomma, ha visto che c'era qualcosa che non funzionava. Da quelle parti ha capito che è cominciata una terza guerra. Gli Stati Uniti per ora sono assenti, o meglio, pare stiano preparando un piano. Nel frattempo, mentre loro preparano il piano, ISIS avanza, cioè questo gruppo, questa milizia sunnita molto, molto forte militarmente, disciplinata, organizzata, usano addirittura la metrica, che è una cosa difficile da usare quando fai battaglie. Beh, insomma, cosa ha fatto al-Maliki? Il premier iracheno si è organizzato, anche lui si fa per dire, ha messo in piedi un po' di brigate di volontari, stanno cercando di lanciare una controffensiva a Mosul. In Kurdistan, per fortuna, ci sono i Peshmerga, che sono molto bravi, dei grandi guerrieri, e hanno tenuto Kirkuk, dove è pieno di petrolio, certo. E il resto del paese però rischia di cadere in mano di ISIS, e per cui abbiamo notizie, leggevo adesso, che sicuramente ci saranno problemi a Samarra ed altre città sante. Lì bisogna capire che cosa succede. Una forte motivazione ovviamente è la religione, per cui è una riedizione dello scontro tra sunniti e sciiti. Il dato è che quella irachena rischia di diventare la storia di uno dei più grandi fiaschi militari. Dopo 11 anni lo scenario è quello di un paese che si spezza. Dopo che Bush ha detto la guerra è finita, abbiamo vinto, dopo che Obama ha ritirato imprudentemente le truppe prima di capire se c'era veramente un nation building stabile e così via, alla fine il paese probabilmente si spezzerà in tre tronconi. Oh, vabbè. È cominciato il mondiale. Ci sono storie che si intrecciano, io le affronterò in una maniera un po' diversa. Il Brasile ieri ha vinto contro la Croazia, ti sei divertito? Medio. Medio, tu butta fuoco. Si sentiva una grande tensione in campo. Io non ne ho avuto sentore. Non ha visto la partita, vabbè, dai. A livello di PIL, parliamoci chiaro, il Brasile doveva vincere 2.200 miliardi contro i 56 errotti della Croazia. Che però, sai, nel calcio sai il fatto suo, infatti hanno sofferto. E oggi Messico-Camerun, pensate, ai viaggi per la scoperta del nuovo mondo. Il Messico, che fu di grandi civiltà, poi passato in mano ai conquistatori spagnoli, e l'Africa, mercato di schiavi, che poi andranno anch'essi in America. E poi Cile-Australia, cioè un confronto del mondo remoto. Le Ande che svettano e il continente isolato dalle rocce rosse. Paese di emigranti il Cile e paese di emigrati l'Australia. E infine, sembra una sceneggiatura e non lo è un caso del destino, ecco gli ex imperi del mare, prime forze della globalizzazione, Spagna, Olanda, Isabella di Castiglia che guarda un po', finanzia Colombo e scopre quell'America di cui stavamo parlando adesso, appunto il Messico, e poi la Spagna che si confronta ancora con una potenza, un grande impero, il popolo del commercio, che è tutta una visione del mondo racchiusa in un nome. E insomma, la Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Storia e poesia che si intrecciano, eh? E sentiamo i mondiali in rosa, cosa ci raccontano oggi, Sara? Notti. Campioni del mondo, campioni del mondo. Parisi, piangente, abbracciato dal nostro commissario tecnico. Il cielo è azzurro sopra Berlino, siamo campioni del mondo. Come dicevate, penso che la partita giocata in sé ieri non sia piaciuta quasi a nessuno, no? Però la protagonista principale, come era prevedibile, è stata l'emozione, quindi il sentimento, caro Mario. Le lacrime, non so, di Thiago Silva, poi 61.000 persone che quando finisce la musica dell'inno brasiliano vanno avanti e lo cantano a squarciagola fino alla fine. Quella era bellissima. Una cosa che a me poi è piaciuta molto è stato vedere Kakà, escluso dalla rosa, invece sugli spalti e prima sul campo sostenere il suo Brasile. Il Brasile è insomma una terra piena di magie e anche di scaramanzie. E allora dico, ma quanto conta la fortuna nella vita e nello sport? Sentite questo monologo di Match Point. Chi disse preferisco avere fortuna che talento, percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no, e allora si perde. E allora si perde. Se credete nella fortuna, raccontateci quali scaramanzie ripetete cerimoniosi quando giocano gli azzurri. 800 24 00 24, invece per gli sms 349 238 6666. Voci dal sen fuggite, il comportamento inaccettabile del PD, dice Orsoni, sindaco di Venezia. Sono superficiali e farisei, soprattutto Matteo Renzi. E insomma, tutti si sono cavati fuori come anime belle. E bella, ma forse senza anima, è Ale, ovvero Alessandra Moretti, dice Orsoni, parlando con Tonacci di Repubblica. È stata bersaniana, lettiana, renziana. La coerenza non è il suo forte. Ormai disconosciuto dallo stesso Partito Democratico, il povero sindaco si trova proprio stordito. La sua promessa è quella di... cioè, anzi, il suo unico errore, dice, è quello di essere stato sindaco, chiamato a fare il sindaco di questa città. Ma poi, siccome Renzi dice che bisogna prendere a calci chi ruba, Orsoni, svelando poi il retropensiero, vorremmo dire, cioè questi, per esempio, questi 110.000 euro, una parte dei fondi, dice che sono arrivati perché c'era la necessità di fare fronte ad un avversario temibile durante la campagna elettorale per l'elezione a sindaco, niente meno che Renato Brunetta. E quindi parabola significat tarantola ballerina, che la sovrafatturazione supera la sovrastruttura di Karl Marx. E quindi, quando si dice la superiorità morale, avendo Marx tra i libri, noi teniamo sempre Goldoni in canna. Cos'è la paura? E che propone una persona ordinaria? Sala che sto puto che propone sia un fior, sia una coppa d'oro. Sala che in sto paese non che sia altrettanto. Sala che se mio sermon. Caspita! Caspita. Bolla, caspita, bolla! Allora, io... Vabbè, senti qua. Che cosa farete, per esempio, con Mineo? Addirittura si parla di violazione della Costituzione. È una scelta assunta democraticamente all'interno del gruppo. Succede che quando i membri non rappresentano più la linea del partito possano essere sostituiti, tanto più che il senatore Mineo a sua volta era lì in sostituzione, non era nemmeno membro della prima commissione. Salvate il soldato Mineo, perché è qua, guardate che... Allora, vabbè, non c'è vincolo di mandato, io lo capisco. Però, insomma, un po' di disciplina di gruppo in un partito ci vorrà pure, no? Che dite? No? Appunto, un po' di disciplina di gruppo. Vabbè, comunque... Mi è sembrato molto indisciplinato. Beh, diciamo parecchio. Insomma, altri 12 del PD insieme a lui si sono sospesi. Vabbè, che fanno poi? Escono? Restano? Escono e poi tornano. Ma che importanza può avere? Come dice Di Michele oggi sul Foglio, il problema è che poi ritornano. Beh, non lo so. Insomma, ritornano, la maggioranza al Senato scricchiola, cioè, anche qua, cioè, Renzi non teme le elezioni anticipate, anzi gli fanno un favore, secondo me. Quindi a questo punto Corradino, insomma, fatto sta cosa, in principio forse, diciamo, di diritto ha ragione, politicamente mi sembra una cosa un po' così, d'altronde lui è sempre stato un po' così. Senti, siamo l'unico telegiornale in Europa, forse nel mondo, che va in onda con le telecamere fisse, inchiodate, senza operatori di ripresa. Perché? Non lo so. Vabbè, si arrabbiava. Insomma, non credo che... Vabbè, Sara? Sì, c'è un messaggio, dice: stesso luogo, stesso posto a sedere, stessi vestiti per la nazionale. Insomma, sa da puzza. Canzoniere. Come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi, tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno dei consigli, a lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri, tutti! Ecco qui, perché io non ho voluto dar retta a quell'uggioso, chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere, dovrei incontrare anche degli... Mix 24. Più che Salamini, Calippi. Balzac, che su Repubblica firma con lo pseudonimo di Carmelo Lo Papa, riferisce dell'ulteriore restringersi del cerchio magico. Marina Berlusconi con Francesca Pascale e Maria Rosaria Rossi blindano il cavaliere. Stop ai contatti diretti per Denis Verdini, che viene filtrato. Stop per Niccolò Ghedini, filtrato, e cono d'ombra anche per Gianni Letta, fuori dal radar della politica anche lo stesso Cavaliere, che si occupa solo di Mediaset e del Milan, mentre la Pascale, in una straordinaria, bellissima, importantissima intervista al Corriere del Mezzogiorno, fa concorrenza al mainstream e pure al magistero, dicendo che Cristo non fa differenze tra etero e omosessuali. I diritti, dice, i diritti ci vogliono. E a questo punto, signori miei, scommessa che vedremo il CAV in marcia al Gay Pride al suono di You got grip e tu don grip, se per caso dicono spatte via, fai a gazzer, c'è la crema, professore. Il 13 giugno dell'81 un bambino di 6 anni cade in un pozzo e inizia così la storia di Alfredino, un dramma che si trasforma in un reality televisivo. Ancora oggi, a 33 anni da quel giorno, si discute sull'opportunità di trasmettere quella morte in diretta per 38 ore. Sentiamo cosa dice Piero Badalone, uno dei giornalisti che prese parte al racconto della tragedia di Alfettina. Non c'era neanche lo spazio vitale per far passare l'ambulanza, che era bloccata e sovrastata da queste, erano state 10.000 persone. Era diventato un reality show terrificante che mi fece tornare a casa molto stomacato. Comunque, se dipendesse da me e se dovesse capitare domani un'altra volta una situazione analoga, non rifarei mai, mai più quello che venne fatto allora. Dopo il giornale radio, la storia di Alfredino. Luca da Napoli per il Canzoniere. Luca, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cos'era il nostro canzoniere, indovinato? E dovrebbe essere Pinocchio. Bravo, giusto, bravissimo Feltrinelli. Luca. Che fa Luca lei? Dov'è adesso, in questo istante? Io sono in fabbrica adesso. Ah, in fabbrica? E ci ascolta in fabbrica? Sì, sì. Anche perché sono uno dei proprietari, quindi... Ah, vabbè. Sono d'accordo. Sono agevolato. Va bene. Allora, buono. Che cosa produce? Facciamo tornitura. Sentito Baban, il presidente delle piccole e medie imprese, prima. Bene, un tornitore molto informato. Auguri, grazie. Grazie, professore. Professore, lei aveva indovinato sicuramente. Certo. Sì, mi sembrava però, temevo ci fosse un trucco, perché è così facile, come mai? Perché abbiamo bisogno di certezza delle risposte. Max da Udine ci scrive: con la signorina Sara Tardelli sarebbe un gran bel mondiale. Un invito a cena, praticamente. Ma come mai ha capito di Max da Udine che sono una signorina? No, non si dice più signorina, è politicamente scorretto. Scorretto. Allora, professore, canone ieri sera. Guardate un po', che c'era uno che la sapeva lunga tempo fa. Ecco, vedete, 42 gradi. Questo è uno degli inizi della democratizzazione in Brasile. Perché dovete sapere che lì fa temperature pazzesche, 45, 50, anche 48. Però c'è una legge ancora oggi in Brasile che dopo i 40 gradi non si lavora più. Ho visto, invece si gioca. Ecco, scusi professore, solo un sms. Antonella ci scrive: metterò in pratica i miei riti pro azzurri solo se riuscirò a vedere le partite sui canali di Rai del digitale terrestre. Non si vede nulla nonostante televisore ultramoderno. Antonella, dica professore. Allora, il problema è proprio questo, era ovviamente te lo do io il Brasile, e questo è di grande attualità, perché il canone se la passa male in questi giorni e sarà sempre peggio, perché la polemica è dietro l'angolo, perché come si fa a non vedere alcune partite, come si fa a non vedere l'Argentina, dove vanno i soldi del canone, ci sarà questa discussione e poi ce ne sarà un'altra. Sono più bravi quelli di Sky o sono più bravi quelli della Rai? Non c'è partita, dice qualcuno. D'altra parte basta guardare un po' gli studi. Chi ha visto ieri sera il mega studio di Sky, le nuove tecnologie, il mosaico, Vialli che scendeva in campo, Ilaria D'Amico e chi più ne ha più ne metta. E lo studiolo invece della Rai, la compagnia insomma che fa il commento prima delle partite. D'altra parte, insomma, professore, spending review alla Rai, diciamo. Spending review necessaria, spending review inevitabile, perché lo sappiamo, però spending review intelligente. Non so se avete notato cosa è successo ieri sera. La Rai, che secondo me deve seguire questa strada di ritrovare, come dire, la sua cifra, la e sua allora? Storia, ha fatto la telecronaca a una sola voce, che è una novità ed è una scelta paradossalmente anticonformista di questi tempi in cui invece si tende ad accumulare. Sempre spending review, insomma. Spending review intelligente, perché una telecronaca che era molto radiofonica, pochi commenti, pochi ronzoli, e però insomma le è piaciuta la partita. Le è piaciuta, ecco. Senta, piaciuta. Professore, un sms che di Michele, che dice: la mia scaramanzia per rispondere a Sara Tardelli, prepartita Italia e Mondiali se gioca la sera, pasta al pomodoro stile italica bandiera, quindi spaghetti bianchi, sugo rosso e basilico verde, se gioca prima panino bandiera, pomodori, fontina, insalata. Michele, vabbè, i nostri, ognuno ha la sua scaramanzia. Allora professore, per chiudere, per chiudere facciamo consigli per il weekend. Esatto. Perché domani sera è un bel guaio, bisogna aspettare 10 secondi. E allora, se uno ha Sky si vede i prossimi avversari, l'Uruguay, ma se uno non ha Sky cosa fa? Può seguire Carlo Conti dalla Basilica di San Francesco d'Assisi? Se proprio una serata nazionale popolare, prima Conti, cantanti, Francesco, quale dei due Francesco? Grazie, grazie professore, purtroppo siamo in chiusura, pubblicità.